9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 31 di maggio, al secondo giorno dopo il sisma che ha ricolpito, dopo altri 10 giorni, dopo le prime scosse del 20, le zone dell'Emilia, e ha mietuto nuove vittime e ha messo in ginocchio tra Carpi, Cavezzo, Medolla, Mirandola, fino all'Emilia, imprese molto concentrate, molto produttive, imprese tessili, imprese meccaniche, imprese agricole dell'agroindustria, imprese della ceramica, imprese del biomedicale, con danni che oramai vengono stimati tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Le domande da cui cominciamo sono semplici, però sono secche, come siamo abituati a fare in questa trasmissione, anche se naturalmente di fronte al sisma e alle vittime mi sforzerò assolutamente di tenere il tono più basso di quello che abitualmente riservo a temi come quelli del fisco, delle sue pretese e della mancanza di riconoscimento alla cultura dell'impresa nel nostro paese. Spesso alzo la voce, molti mi dicono che sbaglio, ma vi chiedo, che cosa avete pensato ieri quando il procuratore di Modena, che io non conosco e non ho motivi naturalmente per giudicare, non mi permetterei mai, ma vi chiedo una riflessione, poiché era evidente già ieri mattina, e a quello abbiamo dedicato la puntata, che stava partendo una polemica contro i capannoni, contro le imprese, presentate come se fossero gli imprenditori ad aver richiamato, malgrado i pericoli, le maestranze a lavorare, di cui le vittime, e contro i capannoni che erano crollati, tra chi puntava il dito contro gli imprenditori che naturalmente vogliono risparmiare su tutto, se ne fottono delle norme antisismiche e così via, e ignorando che in questione antisismica lì l'area è stata riclassificata sismicamente nel 2003 senza obblighi di interventi sul patrimonio immobiliare, perché quelli sono diventati cogenti a seguito della riclassificazione del 2003 solo dopo il sisma dell'Abruzzo nel 2009, e solo sul patrimonio immobiliare nuovo, cioè i limiti cogenti per intervenire sul patrimonio immobiliare esistente sono molto circoscritti e non riguardano questo tipo di strutture. Questo è il quadro normativo che sta sotto i nostri occhi, è accessibile a chiunque può documentarsi e sapere che è così. Queste sono le norme. Prima di far scattare una polemica generale contro le imprese, invece di unirci, dividersi col solito odio sociale, vi chiedo, poiché ciascuno è libero di pensarla come ritiene, ma cosa avete pensato ieri quando il procuratore di Modena, Vito Zincani, all'apertura dell'indagine sui capannoni, prima di aver messo mano a una verifica, a un controllo, ha dichiarato in termini generali che la politica degli impianti dei capannoni, la politica industriale degli impianti dei capannoni nel nostro paese è, testuali parole, suicidaria. Così, tranchant. Queste sono le dichiarazioni del procuratore di Modena. Questo è il contributo a tirarsi sulla manica alla coesione. Questo è il contributo limpido di una magistratura che prima accerta i fatti e poi parla per provvedimenti. Io non voglio dire nulla da parte mia. Non alzo la voce, non mi permetto di giudicare. Io so solo che mi sono rammaricato prendendomi la testa tra le mani nel leggere e rileggere quella dichiarazione. Ero incredulo, letteralmente incredulo, e come sempre mi interrogo sul fatto se scenda io da Marte, se sia evidentemente alle prese con un processo di smarrimento progressivo della mia capacità di interpretare i fatti, tale per cui è meglio che me ne vado, perché è meglio che mi levo di torno, perché se dovessi dire quello che quella dichiarazione del procuratore mi ha scatenato dentro, mi sono dovuto frenare. Ho detto, domani mi limito a chiederlo agli ascoltatori, perché è possibilissimo che sia io fuori luogo. Seconda domanda. Ieri il governo ha varato i primi provvedimenti per fronteggiare l'impatto economico e finanziario del sisma, e io ricordo a tutti che per la solidarietà il gruppo Sole 24 Ore, noi di Radio 24 e Sole 24 vi prega di mandare i messaggi al numero di solidarietà istituito presso la Protezione Civile 45500. Potete farlo sia da gestori di telefonia mobile che dal telefono fisso sono 2 euro a messaggio, e vi ricordo anche invece poi che c'è un'iniziativa che è stata realizzata per accordo da Confindustria, CGIL, CISL e UIL dell'Emilia Romagna per la solidarietà. Il conto corrente bancario è il numero 12900 presso Carisbo Spa, la sede di Bologna, e il gruppo Intesa San Paolo. Ma al di là di questo, il governo ieri ha varato i suoi primi provvedimenti, e il provvedimento è l'aumento dell'accisa sulla benzina, 2 centesimi al litro. Anche qui mi limito a ricordarvi che da sempre l'introduzione di queste tasse di scopo, dalla guerra di Abissinia in avanti, è stata la traduzione del vorace apparato fiscale statale per rendere da tasse di scopo annunciate ad hoc fiscalità generale che rimane stabilmente nel nostro ordinamento. È esattamente quella linea di continuità, ancora una volta, che andava interrotta. E ancora una volta la pessima, storica, accumulata, inveterata tendenza di chi ha la testa dell'ordinamento a dare retta ai tecnici che gli dicono: guarda, questa è la maniera più efficace ed è quella più immediata. Perfetto, è esattamente questo che noi vogliamo vedere smontato un giorno o l'altro. Neanche i tecnici bastano a capire che questa è la maniera più sbagliata e che non bisogna dare retta ai tecnici, che sono i ministri tecnici, sono i tecnici dei capi dell'amministrazione tributaria della ragioneria, che gli dicono: ecco come si fa. No, ecco come non si fa. Bastava questo gesto ieri per rimettere il governo di fronte agli italiani in una condizione di novità, che ne avrebbe fatto immediatamente un motore di apprezzamento, di fiducia. E invece, ancora una volta, siamo alle stesse pratiche. Le pratiche di chi ovviamente ignora che milioni di contribuenti italiani non riescono a capire come lo Stato possa far tirare fuori 3 miliardi a rotti a Cassa Depositi per prendersi la SNAM pubblica e resta pubblica, mentre nel frattempo a chiunque altro dice che non c'è un euro per niente e aumenta la benzina, naturalmente poi rivolgendosi ai petrolieri dicendo: e ci fate la cortesia di abbassare il margine voi. E questa è una cosa alla Grillo, per capirci. E viva il governo dei tecnici. La terza domanda che vi faccio la rinvio dopo le 9:30, perché è relativa a una lettera che moltissime migliaia di contribuenti italiani stanno ricevendo in questi giorni, ed è una lettera di avviso, per così dire. Però adesso diamo voce agli imprenditori di là. Prego tutti, se volete prenotarvi per le telefonate, di dirmi cosa pensate delle dichiarazioni del procuratore e che cosa pensate di questo aumento di 2 centesimi dell'accisa. Nel frattempo io mi limito a dirvi che, a fronte di tutto questo, se andate sul Sole 24 Ore di oggi, trovate nella pagina 2 la testimonianza di un imprenditore, si chiama Roberto Fabbri, e la sua impresa è l'ABK Ceramiche di Finale Emilia, che racconta come, a seguito del sisma, la banca lo ha gelato perché gli ha immediatamente dimezzato il credito, proprio per effetto del terremoto. Viva l'Italia e solidarietà a Roberto Fabbri e a chi lavora, i suoi dipendenti, i suoi collaboratori nella ABK Ceramica. Allora, sentiamo gli ospiti in questa nostra prima parte della trasmissione. Sono con noi Stefano Foschieri, che è l'amministratore delegato di Euroset, che sta a Medolla, quindi in uno dei paesi dell'epicentro. Buongiorno e grazie, Foschieri. Pronto? Foschieri, non lo sento? Forse la linea è caduta? Pronto? Ah, ecco, no, ecco, Foschieri, pronto, buongiorno. Pronto, sì, la sento. Perfetto. E Filippo Manuzzi, che è brand manager di Ceramica Sant'Agostino. Buongiorno anche Manuzzi. Buongiorno, Giannino. Allora, Foschieri, qual è il quadro della vostra impresa e di quelle circonvicine, per così dire? Beh, per quanto concerne Euroset, la società che rappresento, come ho anticipato nell'intervista di ieri, ci siamo salvati tutti, 120 persone uscite. Siamo riusciti ad evacuare dalla fabbrica, Niente, è caduta la linea, riproviamo un secondo, se con Manuzzi invece Ceramica Sant'Agostino siamo messi un po' meglio. Buongiorno Manuzzi, allora per voi. Buongiorno. Invece? Ma noi siamo i colpiti del primo sisma, quindi quello del 20 di maggio, e purtroppo piangiamo due vittime nel crollo di uno dei capannoni di produzione. Oggi la situazione com'è? La situazione è quella di un'azienda che sta lavorando per ripartire. Fortunatamente il 29 siamo stati risparmiati, solo una grande paura, ma nessun crollo. e questo oggi ci sta dando la possibilità, con mille difficoltà che lei può immaginare, comunque di essere al lavoro con più di 80 persone su 350 totali e di lavorare per ripartire. Posso chiederle se lì c'è una qualche eco nelle comunità che stanno nei paesi colpiti dalla crisi di questa polemica che invece si è immediatamente arroventata sui media a livello nazionale intorno alla responsabilità dell'impresa e intorno ai capannoni venuti giù e perché? Guardi, onestamente, noi siamo al lavoro tutto il giorno e tutti i giorni. Cerchiamo di non dare adito a questo tipo di polemiche. È chiaro che c'è un'indagine in corso da parte della magistratura e sarà lei definire le responsabilità. Quello su cui noi siamo tranquilli è il fatto di avere costruito in maniera corretta, secondo le norme vigenti dell'epoca, quindi i capannoni crollati sono tutti prima del 2005, che è stato il momento in cui c'è stata la stretta sull'antisismica in Emilia-Romagna. È chiaro che per come i capannoni sono costruiti non era prevedibile un tipo di scossa del genere, questo è stato detto anche dal Presidente Squinzi in risposta a qualche polemica nata nei giorni scorsi, e noi siamo tranquilli da questo punto di vista. È chiaro che un imprenditore che tutti i giorni lavora, che tutti i giorni rischia, ma rischia anche in prima persona la vita, le spiego, il capannone che è crollato non è un capannone lontano dove lavorano solamente degli operai, ma è un capannone che era centrale e strategico, dove ci sono laboratori di ricerca e dove noi stessi tutti i giorni transitiamo, passiamo e lavoriamo, quindi non ci saremmo mai assunti un tipo di rischio del genere se non di fronte ad un fenomeno imponderabile come quello che è stato il terremoto del 20 di maggio. Ma il caso che viene oggi sollevato sul Sole 24 Ore dall'imprenditore di Finale Emilia, che dice immediatamente la banca mi ha dimezzato il credito, Che opinioni può suscitare? Perché lei pensa che questa potrebbe davvero essere la risposta o sarà la risposta che il sistema del credito mette in atto nei confronti vostri, delle imprese che stanno lì? Io temo che le banche, che loro stesse in questo momento non stanno vivendo un periodo semplice, un periodo facile, purtroppo dovranno fare delle scelte su chi continuare a dare il credito, su chi non continuare. È chiaro che da un punto di vista oggi di spirito di solidarietà, spirito di unità nazionale, sentire questo tipo di approccio, avere questo tipo di risposta da parte del sistema bancario, sicuramente è una cosa che dispiace ed è una cosa che non fa bene. Noi siamo un'azienda che ha la fortuna di avere una buona solidità finanziaria, quindi di poter ripartire con i propri mezzi e reinvestire. È chiaro che se però non dovessero arrivare aiuti statali e un approccio positivo e proattivo da parte del sistema bancario, tutto questo non sarebbe sufficiente per continuare un'attività imprenditoriale sana e corretta nel tempo. Il peso dell'Emilia nel settore della ceramica è larghissimamente preponderante, cioè stiamo parlando di un settore dal vostro parte che pesa più del 90% praticamente del fatturato complessivo Italia. Ora che il sisma è arrivato, in che condizioni stavate dal punto di vista della domanda internazionale interna? Allora, il mondo della ceramica non stava attraversando un momento semplice, quantomeno sul mercato italiano, quindi oggi ci troviamo ulteriormente danneggiati da questo sisma e dobbiamo quindi fronteggiare sia un problema di domanda, soprattutto di domanda interna, fortemente calante per tutto quello che è la crisi del mercato dell'edilizia, sia questi nuovi problemi. Noi, l'area di Finale Emilia e l'area dove sorge la mia azienda, la Ceramica Sant'Agostino, che è a 10-12 km da quest'area, è una zona leggermente extradistrettuale rispetto all'area di Sassuolo, di Castellarano, di Fiorano, dove ci sono la maggior parte delle aziende ceramiche emiliano-romagnole. Quindi direi che da un punto di vista di centralità il distretto ceramico è stato sfiorato, non colpito nel suo epicentro. Certo. È chiaro che viviamo un momento difficile, lo viviamo perché l'Italia oggi sta attraversando una fase difficile sotto tutti i punti di vista, quello dell'edilizia nei settori particolarmente colpiti, e quindi può capire che se non si costruisce e se non si ristruttura La ceramica, che è uno dei materiali di consumo per questo tipo di mondo, è chiaro, fatica ad essere venduto. Non funziona. Allora, vediamo. Io ringrazio Manuzzi, che è il brand manager di Ceramica Sant'Agostino. Vediamo se il collegamento con Foschieri, che è l'amministratore delegato di Euro 7, è tornato un minimo affidabile. Foschieri? Sì, ci sono, ecco. Purtroppo il segnale è debole. Lo so. Cade da lì. Allora, ci diceva, dall'inizio come stiate messi voi? Beh, innanzitutto tutte le persone sono state tratte in salvo, quindi circa 120 persone siamo riusciti ad uscire dal fabbricato, che ha subito sicuramente danni con la seconda scossa. Due persone con traumi lievi sono stati subito medicati al pronto soccorso, ma niente di tutto, quindi anche alla seconda scossa la nostra fabbrica ha, come si suol dire, tenuto e ci ha salvato completamente. Posso chiedere anche a lei, come ho chiesto a Manuzzi di Sant'Agostino, lì si sentono, si toccano, ci sono anche lì le polemiche sulla responsabilità delle imprese e sui capannoni, oppure è una superfetazione mediatica, per così dire, nazionale? Ma si incomincia a sentire qualcosa anche qui dalle nostre parti. Siete rientrati troppo presto, siete stati incoscienti, perché siete rientrati dopo 7-8 giorni dal primo sisma. Sì, questo si è già sentito nei giorni scorsi, anzi ieri. Però io le posso affermare e confermare che siamo rientrati al lavoro lunedì mattina dopo che abbiamo ricevuto 3 visite da parte di ingegneri specializzati e l'ultima da parte della Protezione Civile, che ci rassicuravano e anzi ci facevano i complimenti per come era stata costruita la fabbrica, nel senso che alla prima scossa la nostra fabbrica non aveva subito sostanzialmente dei danni, se non qualche pannello di controsoffittatura o cartongesso, ma nulla di tutto. Lo dimostra il fatto che abbiamo riacceso la macchina produttiva lunedì mattina e tutto ha funzionato al primo colpo senza colpo ferire, quindi da questo punto di vista credo che abbiamo seguito in scienza e coscienza tutto ciò che dovevamo seguire, dovevamo fare per mettere al sicuro i nostri 120 dipendenti. Dovesse dire, dal punto di vista suo e dell'esperienza che ha come amministratore delegato dell'azienda e vedendo come ha funzionato altrove quando sono avvenuti eventi naturali di questa portata in Italia e fuori, che cosa lo Stato avrebbe dovuto imparare e adesso mettere in atto per quello che riguarda gli aiuti e la selezione di che cosa far ripartire concentrando le poche risorse che ci sono? Che cosa è da fare e che cosa invece c'è da evitare secondo lei? Ah, guarda, è una domanda difficile cui dare una risposta in questo momento. In questo momento siamo frastornati e non sappiamo nemmeno noi. Certo è che chi si aspettava due scosse di questa entità nel giro di una settimana? Noi eravamo punti, fra virgolette, di queste piccole scosse, tante piccole scosse, la scossa grossa. Questo non è successo. Il nostro territorio è un territorio alluvionale dove mai si sarebbe pensato di avere un terremoto così, così importante di magnitudo 6. Quindi sicuramente non eravamo preparati, probabilmente le strutture anche 2005 non tenevano in considerazione nulla di tutto ciò, ma perché il territorio non lo prevedeva. Quindi ora chiedersi cosa si poteva e si doveva fare risulta in questo momento difficile poter dare una risposta. Certo è che da oggi le cose cambieranno completamente, dovremo costruire in modo completamente diverso, ma questo è un nostro preciso impegno. L'economia locale deve ripartire al più presto, non possiamo aspettare, perdere troppo tempo, ma questo vuol dire ripartire in sicurezza, a maggior ragione dopo il secondo sisma che è avvenuto martedì. Va bene, allora io ringrazio anche Foschieri, amministratore delegato di Euroset. Ora andiamo in pubblicità. Nel frattempo noi sotto sisma non stiamo dando tutta l'attenzione che merita alle cronache spagnole, alle cronache dell'euro, perché in Spagna ieri nessun giornale italiano ha scritto una riga, ma il giorno precedente si era dimesso il governatore della Banca Centrale Spagnola, si era dimesso perché sacrificato dal governo per evitare un'indagine parlamentare sul crack del gruppo Bankia, cioè le 7 casse di risparmio unite l'anno precedente perché vicine ai popolari, che non sono riuscite a evitare il crack. E il governatore della Banca Centrale Spagnola è stato dimissionato mentre la BCE stroncava il piano del governo Rajoy, del governo spagnolo, per ricapitalizzare d'emergenza il gruppo Bankia, dandogli 19 miliardi di euro non di capitale, perché il governo non ce l'ha capitale capitale pubblico da metterci, bensì 19 miliardi di titoli del debito pubblico spagnolo, in maniera che poi l'istituto fallito spagnolo potesse immediatamente girarli come collaterale alla BCE. Ma questo significa monetizzazione del debito pubblico e secondo i criteri vigenti in Europa non è possibile. Quindi la BCE ha stroncato il piano del governo, il governatore della Banca di Spagna è stato dimissionato per coprire la cosa, ma siamo già al contagio bancario da Eurocrack e temo di dovervi dire che nei giorni immediatamente successivi al voto greco del 17 di giugno, poiché nei sondaggi ancora in questi giorni sommando conservatori e PASOK si fa poco più del un terzo del Parlamento, un terzo dei voti dei greci, se all'agenda europea punto numero uno diventa l'uscita della Grecia dall'euro, il contagio banco-finanziario precederà ogni decisione politica. E allora attenzione, perché nel contagio attraverso il bubone spagnolo già esploso. Apprenderemo allora che due banche greche sono state autorizzate dalla Banca Centrale Greca a non presentare bilancio 2011 perché sono già a capitale negativo. A quel punto il contagio può arrivare nel sistema bancario italiano. Io lo dico a voce bassa, non voglio fare l'allarmista, ma stamattina parla il governatore della Banca d'Italia, immagino vorrà rassicurare tutti, ma io voglio sperare che le autorità italiane e non solo quelle comunitarie abbiano un piano d'emergenza di interventi nel sistema banco-finanziario. Dovrebbero essere coordinati e correlati in sede europea e all'interno del sistema europeo delle banche centrali, perché i sistemi bancari sono interrelati e saltano prima che la politica possa dividersi su eurobond sì ed eurobond no. Però intanto lo scenario è questo, questo è il motivo per il quale la Spagna ieri è arrivato al massimo a 560 punti di spread che c'è l'euro e noi siamo a 460. Ecco, leggere nel frattempo che per esempio la Sicilia porta al tavolo della conferenza Stato-Regioni una norma che prevede la stabilizzazione di altri 18.497 precari che lavorano negli enti locali siciliani, perché il contratto scade il prossimo 31 dicembre, la Sicilia ne ha già più regolarizzati 24.000, ne abbiamo puntualmente dato ragione dei costi, e dopodiché la regione Sicilia sostiene che lo Stato non si deve preoccupare perché è lei che paga, come se lei non fosse esterna al recinto pubblico, per così dire. Sono altri 242 milioni di euro per questi 19.000 nuovi assunti dopo i 24.000 dell'anno scorso come precari della pubblica amministrazione assunti a tempo indeterminato. Io vi chiedo se di fronte a tutto questo poi ci dobbiamo accontentare dei 4 miliardi di spending review per cui hanno dovuto scomodare il mio amico Enrico Bondi. La mia risposta è netta ed è no, perché il livello di presa in giro diventa difficilmente sopportabile. Allora, vi leggo adesso una lettera che migliaia di contribuenti italiani stanno ricevendo in questi giorni, perché nel sottoporvela mi interessa capire da parte vostra come reagite, se siete convinti che si tratti di un atto, aspettate un secondo però perché in questo momento la lettera è misteriosamente scomparsa e quindi dovrò immediatamente procedere al suo recupero perché mi è rimasta sul tavolo di là. È una lettera attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate manda un avviso ai contribuenti italiani e ve ne voglio dare lettura integrale per capire come la pensate, per così dire. Lo farò tra pochissimo, nel frattempo cominciamo con un'altra testimonianza dalle aree del sisma, perché è con noi Luigi Mai. Buongiorno. Buongiorno Zanino. Il collegamento funziona, sì. Benissimo. Allora, come siamo messi, per così dire? Ci fa un resoconto danni propri e circonvicini? Allora, i danni propri è che io ero fra i primi a essere stato colpito con il primo sisma, no? Che mi è andato giù tutto il capannone e abbiamo avuto la fortuna di trovare un capannone vecchio di 50 anni che è ancora su. Bello arzillo e che tiene botta, no? Fatto in ferro. Quindi abbiamo messo a coperto i nostri 50 dipendenti più i 10 esterni. Però con il secondo sisma il nostro capannone ha tenuto botta, ma no, tutti il sistema l'hanno bloccato perché adesso con i morti che ci sono stati purtroppo i vigili del fuoco vanno a vedere tutto, dalla A alla Z. Quindi adesso la situazione è questa. In più abbiamo tutti i capannoni, tutti, dico 99 su 100 che sono stati colpiti in un modo, o sono a terra o inagibili. Quelli messi meglio sono inagibili, ecco. Allora, lei è il presidente della CNA di Modena, la sua azienda è un'azienda meccanica, e le chiedo, di fronte al fatto che i caproni sono scesi e la polemica che si è immediatamente ingenerata, le dichiarazioni ieri del procuratore di Modena Zencani, che ha detto che la politica dei caproni è suicidaria, che pensa di queste polemiche? Allora, io non posso giudicare un procuratore, evidenzio solo il fatto che quest'area è stata classificata gialla, quindi era categoria 3, se non mi sbaglio. Quindi noi abbiamo fatto tutti i capannoni come la legge ci ha indicato. E infatti i capannoni sono tutti a norma, collaudati e a norma. Sta di fatto che con il primo terremoto che è arrivato sono andati giù. Secondo me è successo qualcosa molto prima, perché la classificazione secondo me non era questa da fare. I risultati sono questi. Ed è chiaro che in base alla classificazione sismica sono stati costruiti i capannoni. La corrispondenza non ha funzionato, ma della progettazione ad alto livello, quando si è decisi di fare la nuova classificazione. Io penso questo qua, perché gli effetti, io devo parlare con gli effetti che vedo, che ho qua davanti. Bene, allora stia con noi un secondo, sentiamo le prime telefonate. Faustino ci chiama da Livorno, prego Faustino. Sì, buongiorno a tutti. No, io chiamavo in appunto a questo discorso che ha fatto questo procuratore, che sinceramente trovo insensato e poco competente quelle che sono le sue competenze, visto che quando devono entrare in merito nomino sempre delle CTU per quelle cose lì. Comunque anni fa ho comprato anche io un capannone, chiave in tasca, ho dovuto affrontare tutta la burocrazia di merito per avere tutti i permessi e naturalmente pagando uno si immagina che controllino anche, ma se incassano e basta e non controllano, rimangono dei dubbi, tanto più che questo capannone ha mostrato nella copertura già delle pecche e sono stato costretto, col vento che c'è stato mesi fa, che me l'ha scoperchiato, a cambiare completamente a mie spese la copertura. Ora mi viene un dubbio, ma questo capannone, se viene un sisma tipo quello dell'Emilia Romagna, resiste o non resiste? Ecco il punto qual è, noi paghiamo una burocrazia imposta che dovrebbe però darci delle certezze, delle risposte, sì, tu sei un luogo... Dopo ci saranno tutte le responsabilità. Questo mi sembra veramente troppo. Il procuratore, quello che ha detto, se lo potrebbe anche rimangiare. Forse se lo si risparmiava era meglio, questa è anche la mia opinione. Sentiamo Piero da Alessandria. Pronto, sono Piero. Dunque, volevo intervenire proprio sull'argomento ultimo che è stato trattato, della responsabilità della burocrazia e del governo, che c'è totale, piena, ma su tutta la gestione del territorio. Ma vorrei ricordare, siccome sono... appartenevo al settore pianificazione, che le più grosse pressioni, vedi episodi come Vicenza dove sono state costruite case, capannoni al di sotto del franco dell'argine, vedi Genova dove la signora Vincenzi, la signora ex sindaco, dovrebbe essere stata incriminata per aver lasciato alcune situazioni parecchie, Genova è un disastro. Vedi ad esempio a Sarzana dove è venuto giù il finimondo, il sindaco leghista ha confermato il piano regolatore che vede nelle aree esultate la continuazione della costruzione. Tutto questo dietro pressione dei costruttori e delle associazioni di impresa. Adesso è vero che la burocrazia va distrutta, ma va distrutta e ricostruita, io non so. Se lei pensa che ad esempio il governo Monti abbia questi compiti, ci vogliono 10 anni cambiare la mentalità della gente, a partire dagli industriali e poi vedere il mercato ci impone questo, il mercato ci impone di correre dietro alla concorrenza, ma questo dove ci porta? Usciamo fuori dal mercato il tempo necessario per ricostruire una macchina dello Stato. Piero, purtroppo, guarda, l'autosospensione del mercato significa esserne espulsi per sempre, questo io ho l'obbligo di dirtelo, cioè non è che uno improvvisamente dice ci date 10 anni che mettiamo le cose a posto. Bisogna, come fanno le imprese, essere in condizioni di fare tutto giusto mentre i concorrenti sono spietati. Chi non lo fa? diventa un ordinamento sempre meno attrattivo. E esattamente questo era il motivo per cui da decenni il tasso medio di crescita composto annuo italiano si abbassa. E perché nel succedersi dei vertici politici alla guida dello Stato, la linea è stata quella della continuità. E una continuità a produttività decrementale, come quella, la continuità della pubblica amministrazione italiana, non può che portarci a crescenti livelli di inefficienza, minore trasparenza e maggiore intollerabilità delle pretese che lo Stato esercita nei confronti dei cittadini che si sforzano di ottemperare alla questa quantità barocca e bizantina oramai di norme, regolamenti, eccetera, eccetera, che anche volendo non riesci più a starci dietro, Piero. Questa è la ragione. Bisogna avere gente capace di cambiare le cose in corsa. So che è difficile, ma è così. Mai, Luigi Mai, torniamo un secondo alla situazione delle aziende che sono iscritte alla sua associazione, cioè degli artigiani di queste aree colpite dal sisma. Se dovesse fare una stima dei laboratori artigiani colpiti, del danno che ne verrebbe fuori, che cosa ci potrebbe dire? Cominciano ad avvicinarsi alla verità. Sono coinvolte 4.000 imprese nostre associate a CNA. Okay? Allora, 4.000 imprese, e per i danni secondo me siamo già vicino al miliardo. Quindi è una situazione abbastanza critica. Io l'unica cosa che mi sento di dire è questa qua, che decide per risollevarsi da questa partita qua, lo sa cos'è? È la velocità. Se noi useremo la velocità solita, che quando c'è successo in tutti gli eventi in giro per l'Italia degli anni, quest'area muore, perché il biomedicale, tutta la meccanica, se passano 6 mesi e non abbiamo ricostruito, ho dato dei segnali fortissimi di cominciare a vedere ricostruito tutti i capannoni nuovi, qua si chiude tutti, perché i nostri clienti vanno da altri, esattamente, il mercato non si ferma, fine, ed è così. È semplice, è così. Il biomedicale è in mano alle multinazionali, ma lei pensa che certo. Si pensino dietro 3 mesi per spostarsi? Io mi auguro che questo appello di Luigi Mai, ma è l'appello di chiunque abbia una vaga idea di che cosa siano le imprese, i settori produttivi e di che quanto sia importante quel radicamento, ed è la forza attraverso la quale poi piccole dimensioni di impresa sono riuscite a restare competitive di fronte alla sfida di grandi gruppi internazionali in questi settori. Lì perdere tempo e applicare le ricette a cui lo Stato ci ha abituato porta a quello che ha detto il presidente di CNA, alla morte dell'impresa. Basta che ce lo diciamo prima e i signori magistrati ci risparmino le chiacchiere. Tornano i Doors, e oggi però i Doors hanno portato sfiga anche a me, perché in realtà io sono con un solo computer in questo momento che funziona, e il problema è che mentre contavo sull'altro, quindi di leggervi la lettera dell'Agenzia delle Entrate, che a questo punto invito tutti, domani ve la leggerò domani, e purtroppo non ve la posso leggere perché il computer mi ha lasciato, e se lo faccio sull'altro mi perdo invece la situazione delle telefonate in onda e degli sms, quindi ammetto che ogni tanto le cose vanno storte, e vanno storte naturalmente anche a me, come è ovvio, però vuol dire che lo faremo domani all'inizio di trasmissione, perché è una letterina di quelle che fa riflettere molto sul tipo di trattamento che lo Stato ci riserva. È una lettera del genere ultimo avviso, che mi ha fatto pensare che lo Stato talvolta non è più padre, quasi sempre padrone, ma oramai anche padrino soprattutto. Comunque, sentiamo ancora qualche telefonata, come la pensa Gennaro dalla provincia di Salerno, delle voci che ha ascoltato l'impresa e delle polemiche con cui abbiamo cominciato questa mattina. Gennaro, prego. Salve, buongiorno. Allora, io opero nel settore agricoltura, diciamo principalmente nel settore semi. Volevo sottolineare come questo aumento solito delle accise, oltre ad avere il primo impatto diretto sul consumatore e su chi ogni giorno deve fare il pieno o comunque deve fare rifornimento per lavorare, come avrà poi degli impatti successivi sul costo delle materie prime, per esempio il seme per l'agricoltore che dovrà comprarlo, quindi fra qualche mese oppure nella prossima campagna ci sarà un aumento, e quindi anche l'agricoltore sarà obbligatoriamente, diciamo, dovrà obbligatoriamente poi dopo pensare di aumentare il costo della frutta che venderà. Questa è una cosa che diciamo non si sottolinea mai. No, no, ma è abbastanza, perché gli effetti delle decisioni del governo che dicono aumenta l'accisa, come se non bastassero gli aumenti che ci sono state, e l'inevitabile polemica, perché la gente poi dimentica che il più della componente di quello che paga la pompa è dovuta allo Stato, chiaro questo, Stato, perché è facile prendersela con l'impresa, lo so che vi addestrano a farlo, anche ieri Passera infatti ha stretto l'occhiolino dicendo petrolieri ci siamo sentiti, vi dicono sempre che i petrolieri non sono abbastanza rapidi, quando i prezzi scendono come lo sono invece quando salgono, e tutte le volte dobbiamo spiegare che la marginalità che si realizza con questa cosa della discesa non c'è nei dati, come invece ragionevolmente molti di voi possono pensare, e molti di voi possono pensare che adesso io sto difendendo i petrolieri. Il problema è che siamo l'unico paese avanzato in cui il 60% del prezzo alla pompa se lo ciuccia lo Stato, tra IVA e accise che sono anche sopra l'IVA, quindi c'è il doppio aumento dell'imposizione da parte dello Stato, è lo Stato che ci rapina, chiaro? Ecco, questo però evidentemente a molti sfugge. Quando lo Stato aumenta, come fa ieri, l'accisa, non fa altro che generare la catena di conseguenze che ci spiega oggi Gennaro, in settori che sono già in difficoltà e in ginocchio, e a pagare siamo tutti noi. Dopodiché ci dicono che tasse di scopo per questo o quel coso, e invece poi si tengono tutto, perché così è sempre avvenuto. Anche ieri ci è stato detto che il 31 di dicembre di quest'anno decadranno i 2 centesimi per il contributo di solidarietà e il finanziamento degli interventi al sisma in Emilia. Ci credete voi? Io non ci credo, come ovvio. Beh, sentiamo Carlo dalla provincia di Modena. Prego Carlo. Sì, pronto? Dica. Sì, Giannino, buongiorno. Ascolti, io chiamo dal comune di Ravarino, che è uno dei comuni colpiti marginalmente dal sisma, siamo a una 15 chilometri. E cioè, quello di cui si parla qua, anche nei campi dove c'è la protezione civile, che mi sembra di non sentire, diciamo, sulle reti nazionali, sono le trivellazioni che sono fatte in zona. Io non so se per cercare il metano o no, che comunque sembra che abbiano una, o potrebbero avere un, insomma, una parte di causa per quello che è successo. Che mi chiedevo se andranno avanti ancora queste trivellazioni, se saranno sospese, se ci sarà qualcuno che ci guarda. Tra l'altro, osservando su internet la cartina dove sono collocati questi 8-9 pozzi, sono proprio praticamente su una linea dove si sta, dove stanno avvenendo gli epicentri, diciamo, del terremoto, capite? Sono cose che qua da noi la popolazione osteggia, qua vicino a San Felice, una località che si chiama Rivarci, c'è un comitato che sta lottando da anni per impedire un'altra, diciamo, di queste trivellazioni. Diciamo che o si sono sbagliati i geologi a dare il rischio sismico alla regione in tutti gli anni passati, o forse è successo anche una serie di eventi, di trivellazioni che l'hanno cambiati. Allora Carlo, io apprezzo molto il tono piano con cui ci stai esponendo questa cosa, perché è uno dei temi che sta montando, per così dire, intorno agli eventi e su internet, la teoria del fracking, per così dire, cioè che prospezioni e trivellazioni abbiano, per così dire, contribuito, accelerato, determinato, alcuni dicono addirittura, questa nuova faglia che rappresenta una discontinuità rispetto alla storia sismica dell'area, e che bisognerà vedere che conseguenze avrà. L'unica cosa è che secondo me nessuno può dirlo a scatola chiusa, e bisognerà quindi che i geologi approfondiscano molto la materia. Nessuno può essere così matto a fare prospezioni e trivellazioni per creare sismi, bisognerà vedere che cosa avviene. Appuntamento a domani.